C'è amarezza perché ci aspettavamo un comunicato stampa, una nota stampa un po' più articolata, in modo da poter decifrare il fatto che abbiano deciso che è infondato i ricorsi in base all'articolo 329 della Costituzione. Ci si riferisce soltanto al matrimonio o ci si riferisce anche al fatto che i cittadini omosessuali non sono più uguali davanti alla legge? Chiaro è che almeno io con Matteo non ci fermeremo.